Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Ed è passata pure l'epifania. Mannaggia già. Siamo animali. Perché il mondo dalla prospettiva animale, io e te siamo animali, ma tu. Cioè l'essere umano siamo due belle bestie, però, un animale. L'essere umano è un animale, no? Però ha una sua psicologia particolare. Allora, siccome in questi giorni abbiamo parlato tante volte, io e te, come noi, se lo saranno fatti tante persone a casa, no? Durante le feste cosa fai? Ti dici: voglio adesso sistemare i buoni propositi per il 2017. Sì, ma no, io no, perché io sono già perfetta. Ah sì, no, dimenticavo questa tua cosa. Hai ragione, amore mio. Mamma mia, tu sei perfetta. Che noia, così. Allora, mentre le persone comuni e disgraziate se lo domandano come e disgraziate come me si fanno una lista, si fanno uno schema. Qual è la tua lista per i buoni propositi del 2017 con me? E poi per te la faccio leggere, poi no, te la faccio leggere, ma non perdiamo tempo. Dimmene perché... uno. No, non te lo dico, Allora, allora, qui con noi abbiamo invece una life coach di grande successo, scrittrice anche, che si chiama Deborah Conti. Ciao, wow. Deborah. Ciao, Deborah. Ciao Rosita, ciao Angelo. Vedi, Angelo parla di buoni propositi, ma non mi vuole dire i suoi buoni propositi con me del 2017. Ma poi sono cose private, amore, non posso dirle. Sì, talmente private segreti. Che non le vuoi dire nemmeno a me. Come faccio a controllare? Ma non te le voglio dire in radio, non è che non te le voglio dire a te. Bene. Senti, allora, Deborah, ognuno usa i suoi strumenti, no? Perché chi si fa le liste, chi scrive sul proprio diario, che si fa gli chi schemi, chi poi non rispetta tutti, nessuno rispetta le mappe mentali. Cioè, allora, una cosa che so dei miei amici life coach è che a volte si trovano di fronte dei loro clienti che non sanno neanche scegliere tra le opzioni, tra gli obiettivi, no? Non so se ti è mai capitato. Sì, ci vuole coerenza tra ciò che vogliamo e ciò che possiamo fare, no? Ecco. Che è una cosa che poi io faccio sempre mettere partiamo insieme benissimo. Alle persone. Quindi i desideri, ciò che mi piacerebbe fare, ciò che vorrei raggiungere, ma alla fine lo posso fare, fa parte della mia quotidianità, riesco a inserirlo dentro. Allora questo posso e questo voglio devono andare assolutamente di pari passo, se no non funziona, se no poi dopo c'è frustrazione, c'è fastidio. Senti, ma c'è uno tensione. Come fa a capire se può, perché ci sono delle persone che dicono no, ma questo non è possibile, invece no, perché per loro è possibile, mentre altri che invece dicono questa cosa è assolutamente possibile, invece non lo è. Ma uno come fa ad identificare quando è possibile e quando no? Ma... Beh, questo è un grande mandone, Angelo, ci vogliono le convinzioni delle persone. No, ma poi dipende dalla cosa, nel senso che, come dire, se uno dice io credo che fra le cose possibili in assoluto per chiunque, penso, poi dimmi tu se mi sbaglio o no, c'è il fatto che uno dice adesso dal primo di gennaio dell'anno prossimo mi metto in forma, dimagrisco un po' di chili, prendo regolarità nel fare attività fisica, poi regolarmente sto parlando. Ma guarda, c'è un grande problema di fondo. Il problema di fondo è che noi possiamo scrivere, fare le liste, fare le mappe mentali, disegnare, pitturare, cantare, ma se poi non lo trasformiamo nel linguaggio della nostra mente abitudinaria, che è lei che metterà che in atto il cambiamento... Esatto, resta alla fine un buon proposito, resta alla fine una cosa che ma voglio. Ma tu ci sai spiegare appunto com'è questo andare allora, Dunque la differenza fra chi desidera e chi alla fine fa è che trasmette il messaggio, chi desidera, quindi la sua forza di volontà la trasmette nel linguaggio giusto alla mente, che io chiamo abitudinaria, ma alla fine è quella parte centrale del nostro cervello che è la mente limbica, no? Quindi il cervello limbico che gestisce le emozioni, le abitudini, i comportamenti, le emozioni legate alle memorie, eccetera, eccetera. Quindi se io continuo a dire voglio fare questo e anche se so che posso farlo ma non trasferisco il messaggio con il linguaggio giusto della mia mente abitudinaria o inconscia, resterà soltanto sul pezzo di carta, no? Quindi prima indicazione che io vi vorrei dare è quando ci poniamo tutti questi obiettivi, i nostri buoni propositi, io direi di diminuire radicalmente il numero dei devo e aumentare molto di più i voglio. Perché? Perché il voglio, io cosa voglio alla fine? Per parlare con la mia mente abitudinaria, io voglio che ci sia una buona scarica chimica nel mio sistema nervoso, no? Quindi io voglio che il mio corpo goda quando vedo una cosa che farò, sento una cosa che farò, no? E quindi se mi dico devo dimagrire, devo smettere di fumare, devo lavorare di più, devo dare più tempo a questa persona, già sento il sacrificio nel devo. Invece cosa succederebbe se io smettessi, per esempio, mi dicessi per esempio un bel voglio dimagrire, voglio smettere di fumare, voglio diventare più puntuale, voglio dedicare più tempo a questa cosa. Vedi che già chimicamente è diverso. È vero, soltanto, bellissimo. Vedi, e lo sto dicendo io, ma lo percepite voi e tutte le persone che ci ascoltano, no? È già diverso, la risposta chimica che è legata alla parte limbica è radicalmente diversa. Quindi tu questo fai, quando una persona ti chiama lo sì. accompagni in questo percorso? Sì. A livello linguistico, che si traduce in un'attuazione a livello chimico dentro di noi, rende tutto più facile. Bellissimo, ma ci sono degli altri... Allora, quindi sostituire i devo con i voglio. Io vedo la mia lista dove ho scritto devo, tolgo tutto, cancello e metto voglio. Bravissima. E poi io suggerirei un'altra cosa vorrei, molto facile da fare. Allora, vorrei... Per carità, non è male, ma è più un indicativo, un po' sarebbe meglio. Perché... è un po' più è più facile, insomma, boicottarlo il vorrei, certo. Quindi io preferirei un voglio. E poi un'altra indicazione molto facile è quella di sembra uno dei comandamenti, ma non nominare quella roba lì, perché quella roba lì che non vuoi più fare, se io la nomino, mente l'ha già vista, esatto, la mia mente la vede, il mio sistema nervoso la percepisce, non ha funzionato per niente. Quindi non devo nominare il sovrappeso. Esatto. No, però scusami, non devo nominarlo quando è qualcosa che non voglio più fare, ma se io invece una cosa che voglio fare la devo nominare. Esatto, sì. Non devo nominare il non, no? Quindi quello che si dice, per esempio, non voglio più fumare dopo cena, non che ne so. Non voglio più bere 7 caffè. In realtà ho già visualizzato tutti esatto, i 7 momenti della giornata in cui bevevo il caffè. Oramai la programmazione mentale è andata a ramengo, non si può, esatto. Non funziona. No, però se quindi io dico voglio ricominciare a fare lezioni di tango, quello lo devo visualizzare. Sì, questo va benissimo, perché io vedo tutti gli eventi del passato, la mia mente abitudinaria, tutti gli eventi del passato in cui facevo lezioni. Senti Deborah, ma io posso dire voglio che Angelo venga a fare lezioni di tango con me? Funziona pure con gli altri? No, mi dispiace. Voglio che cavolo. Mi dispiace, non funziona. Non funziona. Ma vedi, il mio problema però è il tempo, non è la mancanza di voglia. L'allero. Mi dicono tutti sì. così. Brava. Siete due stronze. Brava, allora brava, il discorso perché io gli ho detto ma non è vero, ma scusa, io prima ma che poi prima lo dici di sempre tu a me. Rosita, quando mi deve cazziare di qualcosa dice tu sono tutte scuse perché non è vero che non hai tempo, Peter, il tempo lo si voce, togli la voce. Allora io desidero fare tango, ballare il tango da ancora prima di conoscere non hai mai te. Detto voglio che c'entra, ti faccio rispondere direttamente da Deborah parlagli tu. Allora, il mio punto non è voglio gestire meglio il mio tempo. Questo ok, allora arriva a questo punto lo strumento che mette tutto in atto, cioè le domande utili, che io consiglio sempre gettonatissimo. A questo punto mettiamo a caso che tu voglia veramente fare le lezioni di tango, quante belle domande utili ci puoi ficcare per fare in modo che la tua mente abitudinaria renda questa cosa. Sentire. Che bello, vai. Cosa posso fare per? Cosa voglio fare per? Quando posso fare lezioni di tango? Dove posso fare lezioni di tango? Come mi voglio vestire? Come mi sentirò dopo aver fatto la prima lezione di tango? Dopo le prime 20 lezioni di tango? Quando farò, non lo so, quando andrò a fare un'esibizione fantastica, no? E quindi già crei una risposta chimica dentro di te e ti crei una mappa più o meno pratica e chimica di quello che farai. No, vabbè, Deborah. Che brava che è Deborah Conti. Ti adoro, Deborah. Fantastico. Adesso se verrà a fare tango. Dai, dita che la prossimo anno, quest'anno ci sono le lezioni di tango. Dai. Senti, Deborah, rimani con noi che dobbiamo mandare una pausa e tra poco torneremo a parlare ancora di questa cosa. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Beh, stavamo parlando di un argomento di buone proposte, come raggiungere gli obiettivi. In questo adesso, caso stavo parlando del tango, perché io piacerebbe io adesso un giorno chiamerò Deborah privatamente e gli dirò tutte le cose che voglio che tu faccia per me. Come posso influenzare Angelo con le domande utili? Brava. Madonna, per me che, o come no, ma io che voglio, alleanza spaventosa ma scusa, che ma siete voi due. Ma il cielo comunque, che ci sono delle donne che pensano a renderti felice, scusa, ma pirla. assolutamente io lo faccio perché ti voglio bene, perché ti amo, perché so quali sono le cose che grazie, ti renderebbero felice. Grazie, ballare il tango amore, con me. Comunque voi due assieme siete pericolose, non potete circolare. Allora voglio dire a chi ma si io è, sono seria. Voglio dire a chi si è collegato in questo momento che abbiamo con noi Deborah Conti, che è una life coach bravissima, e ci sta insegnando come raggiungere gli obiettivi che noi ci possiamo porre adesso che è l'inizio dell'anno. E quindi dicevamo quando... Io ho detto che voglio, perché ho chiesto a Deborah a un certo punto se questa erba voglio vale anche non solo per me, su me stessa, su per esempio altri. Sul mio fidanzato, tipo, adorato, il mio fidanzato mi ha lasciata e voglio che torni gli da un me cagotto. Fatti come delle faccio? Domande chiave. Deborah Conti farà anche la macumba come... No Deborah, cioè noi poi dopo la buttiamo un po' in vacca perché ci divertiamo a prenderci in giro, però adesso a parte tutto è serissima questa cosa qui. Beh, ma tu pensa che i creatori della programmazione neurolinguistica, no, a cui si rifà Deborah quando parla del linguaggio, hanno scritto, come si chiamava quella cosa della magia, la struttura della magia, che è stato... Esatto, che però è la nostra magia interna. Io non posso fare la macumba su nessuno, certo. Però posso gestire la mia emotività, quindi mi ha lasciato, vabbè, gestisco la mia emotività, mi rialzo e vado. Che meraviglia. Stavamo parlando prima delle domande, cioè dopo che uno ha sostituito tutte le parole devo con voglio, se voglio andare ancora più nello specifico posso usare una lista di domande, no? Tu legata al tango dicevi come posso, dove posso fare praticare tango, come posso riuscire a farlo, come sarà dopo 20 quindi lezioni? Quando io dico voglio rimettermi in forma mi devo porre le stesse, cioè mi devo porre una serie di domande che mi aiutano a trovare, a organizzare mentalmente o emotivamente la forza di poi mettere in pratica questo desiderio, giusto? Ho capito esattamente, giusto? Perché tu, esattamente, tu hai espresso il tuo desiderio, l'hai espresso linguisticamente in modo corretto da sollecitare la tua mente abitudinaria, adesso farai in modo che sia lei a trovare le risposte, quindi tu sai coscientemente che vorrai rimetterti in forma, ma vuoi che, come per i bambini quando li educhiamo, come quando incuriosiamo le altre persone, come quando influenziamo le altre persone, noi vogliamo influenzare la nostra mente abitudinaria facendo domande. Quindi, come posso fare per, e rendendo le domande veramente eccitanti, no? Per esempio, come posso fare per ritornare in forma nel 2017 in modo divertente, in modo piacevole, in modo salutare? Queste tre cose del divertente, piacevole e salutare la rendono una bella domanda utile, perché eccita la voglia di fare, no? Se invece tu lo dicessi come posso fare in modo rigoroso, duro, oppure la lasciassi vuota, rischia di diventare una domanda che va contro poi dopo i tuoi desideri di divertimento, di insomma di godertela un po', no? E quindi vogliamo fare delle domande utili veramente ad hoc, e questo è un'arte, cioè bisogna mettersi lì, imparare a farlo. Meraviglia. Sì, io, c'è chi poi non ci riesce comunque? È certo, perché poi dopo bisogna vedere quanto tempo te le fai, quindi anche la ripetizione, che è uno dei modi con cui la nostra mente abitudinaria apprende, la ripetizione di queste domande utili deve essere fatta, il momento giusto, per esempio la mattina, mi piace molto consigliare di farlo la mattina perché è il momento in cui noi ci alziamo, siamo ancora in questo stato un po' alfa, organizziamo tutto il resto della giornata, perché non organizzare anche uno dei buoni propositi del 2017? Ah, no, quindi scusa, fammi un esempio, la mattina ti alzi e... La mattina ti alzi, tu dai, la mattina ti alzi e pensi a cosa fai nella giornata, no? Quindi alle 9 faccio questo, alle 11 faccio questo, ok. A questo punto è un ottimo momento per ficcarci dentro un obiettivo, un buon proposito, e renderlo quindi un obiettivo, una roba programmata, una roba reale. Non solo, dopo le domande utili, poi alla fine cosa farai? Automaticamente tu ti vedrai fare quella cosa lì, e una delle domande utili che io consiglio alla fine, dopo questo percorso di creazione, è proprio quello di sentire dentro la soddisfazione che uno prova dopo aver fatto dopo quella aver roba fatto. Lì, no? Quindi una delle domande utili che io consiglio è quanto soddisfazione, quanto orgoglio proverò per me stessa, me stesso, dopo aver fatto quella cosa, quando avrò fatto quella cosa, quando avrò ottenuto quella cosa. Questo è un'eccitazione incredibile per il nostro sistema nervoso, e è quasi una spinta, una molla, un elastico che ci porta e ci attrae verso la cosa da fare. Bravissima Deborah. Allora io voglio dire anche a chi ci ascolta che se non riuscite da soli, i life coach esistono proprio per questo, per cui chi di voi volesse leggere i libri di Deborah Conti o ascoltare i suoi audiocorsi o partecipare ai suoi corsi o averla come life coach, vada su deboraconti.com in modo da poterla contattare. Grazie mille Deborah. Grazie, straordinario. Grazie mille. Grazie Deborah, ciao, a presto. E abbiamo ciao ragazzi. Adesso Deborah. Vedrai che adesso mi bello, metto giù un bello schemino. Ti metti giù un bello schemino. Beh, vedi se non viene a far tango con me allora, nel 2017. Allora, stiamo parlando, no? Cambio discorso. Cambio discorso, sì, siamo in radio, dobbiamo poi... Cioè, no, continuiamo a parlare dei cavoli nostri. Non lo so io. Allora, perché abbiamo parlato dei buoni propositi? Perché un proprietario felice rende il cane felice per osmosi, no? Però è anche utile. Quanti obiettivi noi abbiamo con i nostri anche animali? Anche una fidanzata felice rende il fidanzato felice. Esattamente, quindi vedi di essere felice. Mi sono felicissima. Allora, oggi abbiamo una carrellata di ospiti straordinari. Sai quando noi chiediamo al cane sei felice? No? O il cane ci chiede a noi, ma me lo chiedi se sono felice, quando io sto bene? E quindi si apre un dialogo con un essere che è diverso da noi e proprio questa diversità arricchisce questo dialogo. Ebbene, con noi adesso abbiamo una persona molto attenta a questo genere di dialogo, non solo con gli animali, ma soprattutto, cosa per la quale è diventata famosa, con le piante e con la coltivazione dell'orto. Bello! È una persona che è di una grande saggezza, ho visto io. Insomma, si chiama Adriana Bonavia Giorgetti ed è qui con noi. Buongiorno Adriana. Buongiorno. Buongiorno Adriana. Allora, lei, io l'ho conosciuta attraverso i suoi libri, per esempio ce n'è uno che è bellissimo, il titolo, L'arte di coltivare l'orto e se stessi. Come è nata questa idea qui? Non è tanto un'idea quanto un'esperienza. Io mi sono messa inaspettatamente a coltivare l'orto, cosa di cui non sapevo assolutamente niente, esperienza non ne avevo, ho preso il coraggio a quattro mani, mi sono buttata nella coltivazione di un orto che era mio, ma che io potevo curare all'inizio soltanto saltuariamente, e ho visto la possibilità, ho intuito prima e poi ho sperimentato, la possibilità di, non tanto di imparare, ma nel linguaggio inerente all'orto, di coltivare, cioè di coltivare me da tanti punti di vista. Che meraviglia! Quindi invece già questa è una sostituzione di vocabolo, sì. non è che imparo, è che io coltivo me stesso, come faccio con l'orto. Cioè quali sono i paralleli tra il coltivare l'orto e coltivare noi stessi? Non so nemmeno se li ho scoperti tutti. Ah, vedi? Ma ce n'è qualcuno? Sì. Il libro è il resoconto, il diario per così dire, di un anno di lavoro che ha richiesto intanto il recupero del perché avevo voluto dare una certa forma all'orto, in quanto gli orti lombardi di solito hanno delle aiuole parallele suddivise da, chiamiamoli passaggi pedonali paralleli. Sì. Invece lei che forma gli ha dato? Io le dico il motivo per cui ho cambiato questo movimento. Sì. Non mi piaceva assolutamente essere costretta, per così dire, ad andare diritta fino in fondo all'orto, andare contro il muro e poi tornare indietro. Io volevo che si circolasse nel mio orto. Quindi tipo spirale? Circolare. No, non proprio, tipo, forse si può dire più, non so se lei è presente quelle non mi viene una parola giusta. Andare in un percorso, l'orto è quasi sempre rettangolare, si può dire, per lo meno per tradizione, salire verso la parte più alta dell'orto, invece di tornare indietro, aprire un percorso sulla destra, ritornare con la sinistra. Ah, un labirinto. Bravo. Un labirinto, invece di, cioè si gira, anzi, la pretesa del labirinto, un movimento di quest'ordine. Questa è stata forse la prima, come è stata una riflessione su una cosa che avevo già fatto, mi ha fatto riscoprire qualche cosa che era un'esigenza mia. Questo io lo considero un elemento di coltivazione. Chi c'era stato prima di me in quest'orto non aveva la stessa esigenza, aveva fatto benissimo non averla, aveva seguito la sua linea e quando sono arrivata io non ho potuto seguire questa linea altrui. Quindi l'istinto l'ha portata a fare un percorso diverso, però ugualmente funzionale? Beh, sì, dal mio punto di vista molto più soddisfacente, anche perché non è solo istinto, è riflessione ed è lavoro, è tanto lavoro. Senta, ma io ho letto su un altro suo libro che si chiama Aperture contemplative sui bambù, cosa che per me è stata molto naturale, immagino che possa qualcuno possa rimanere perplesso, che lei si chiede cosa ha da insegnarmi oggi questo bambù, è giusto? Ho letto bene, ricordo bene. Probabilmente questo bambusetto, perché il bambù da solo il bambusetto, il bambusetto è sempre un boschetto di bambù o un grande bosco di bambù. Siccome io in Cina avevo visto dei boschi di bambù che si estendevano per chilometri, un po' presuntuosamente, se così si può dire, ho provato nel nostro pezzo di terra nel Varesotto a mettere dei bambù che adesso hanno preso uno sviluppo persino eccessivo. Ma chiaramente non è il bambù, è una famiglia, è un qualcosa che nasce. Il più grosso dei nostri bambusetti è nato da, da un vasetto di 20 centimetri di diametro e adesso è lungo un po' più di 100 metri, 115. Accidenti. Ma lei però era un'appassionata già di piante, cioè vuol dire non ha iniziato proprio da zero, così un giorno ha detto ma proviamo a fare un orto, era un'attenta che magari aveva la possibilità di avere delle piante in casa, le piacevano, magari aveva letto, oppure è partita proprio da zero? Io mi considero partita da zero perché sono nata a Milano, sono cresciuta a Milano in un'altra città anche, ma insomma sono stata sempre molto molto cittadina e non avevo nessun desiderio di avere un terreno da coltivare. Ma siccome aveva mio marito, a un certo punto mi sono trovata nella condizione di fare qualcosa che era teoricamente, come dire, non era nelle mie intenzioni, non era nei miei desideri. E poi gli si è aperto un mondo. È stata una cosa interessantissima, ma non soltanto sull'orto, sul bambù, su qualunque cosa, su qualunque aspetto della natura. In particolare, indubbiamente, io mi sono rivolto molto più ai vegetali che non agli animali. Sì, comunque facciamo tanto tutti parte dello stesso disegno. Beh, bellissimo, belli poi i libri, Angelo, me li farò passare da leggere. Grazie di questa testimonianza. Grazie Adriana Bonavia Giorgetti, io ricordo che lei ha scritto diversi libri, io li trovo La città del sole a Milano e ve li consiglio vivamente perché sono veramente dei momenti di contemplazione grazie al rapporto, alla relazione con le piante e con l'orto che noi possiamo coltivare. Grazie mille, certo, Adriana. Vorrei dire una cosa ancora? Sì, certo. Erano nati come comunicazione tra amici. Gli amici mi chiedevano ma cosa fai, cosa combini, come mai ti sei messo a queste cose, non le hai mai fatte. Sono nati così e sono andati agli amici che mi hanno chiesto di dare degli altri, dammene degli altri che li voglio regalare, e la cosa è andata avanti in questo modo per qualche anno, finché un paio d'anni fa una piccola editrice che si chiama, neanche tanto piccola in realtà, che si chiama Ponte alle Grazie, che fa parte di un gruppo grande. Che la conosco benissimo io. La conosco bene, ecco, allora ne ha pubblicati un paio, adesso vediamo se andiamo avanti con questa pubblicazione. Sono stati bravissimi, bravi tutti. Grazie Adriana, buon anno, eh? Grazie Adriana. Arrivederci. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. E dunque, conoscendo Adriana Bonavia Giorgetti che abbiamo appena intervistato, non mi dichiaro soddisfatto perché questa donna ha un sacco di cose da dire, quindi la dobbiamo richiamare assolutamente. No, ma poi ci raccontava anche, quando abbiamo parlato con lei, che anche il marito si sta occupando di api, quindi il discorso con le piante non sono è da risentire. Non è così come si dice, facile da dire in poco tempo, anzi ci sono talmente tante cose interessanti, perché ragazzi noi facciamo parte di un disegno fantastico che è il mondo, esatto, tutto siamo l'universo. Interdipendenti, quindi chiederci anche se le nostre le piante sono animali, felici certo. Ovviamente tra virgolette, perché non è che hanno un sistema limbico le piante, però le piante sono dotate di cognizione, le piante stanno in salute piuttosto che no. Allora questo rispetto per la natura, come sappiamo, pervade ogni cosa. Io tanti anni fa sono rimasta affascinatissima e ammirata, e quindi merita molto rispetto per esempio la cultura dei famosi pelle rosse degli indiani d'America, no? Perché loro quando dovevano tagliare una pianta per farci i loro tipi, che erano le loro casette, le loro tende, dicevano sempre una preghiera di ringraziamento per l'anima di quell'albero che dovevano anche tagliare. Quando ammazzavano per mangiare, anche quando ammazzavano per mangiare. Ricordiamo che i nativi americani non erano vegetariani, ma avevano un gran rispetto per avevano un gran rispetto perché non avanzava, quando prendevano, cacciavano i bisonti, usavano tutto del bisonte in modo che non andasse sprecato e buttato niente, nel rispetto dell'anima dell'animale che si era sacrificata per poter nutrire loro. Cioè c'era proprio un rispetto, uno scambio. E invece scambio. Erano scioccati, come sappiamo da qualche film, quando No, ma non so, da qualche l'uomo film, bianco da libri faceva stragi di bisonti per prenderne soltanto la pelle. Loro dicevano: ma questa è follia pura. Loro e avevano addirittura ragione. Dicevano che le pietre respiravano. Tant'è vero che c'è un libro famoso che si intitola Il respiro delle pietre, cioè perché l'anima ma sta dappertutto. Ma questo, come sappiamo, non è scientificamente vero. Sì. A un certo punto è stato posseduto da Piero Angela, da Alberto Angela. Così, un, tipo due, tre il CICAP, via. Capito? Il CICAP, il comitato contro le affermazioni sul paranormale. Ma chi le pietre se ne frega? Non respirano. Allora, parliamo... Le pietre respirano invece. Invece le pietre respirano. Invece dobbiamo le pietre insegnare respirano. Questa cosa qua. Ma questo è il punto. Che cosa intendevano loro con ogni il respiro pietra delle respira, pietre? Che c'è vita anche lì dentro. Allora, lasciamo questa domanda aperta ai nostri ascoltatori e scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it per esprimere la vostra opinione su questo argomento, sul rispetto, sul fatto di vedere viva anche ogni pietra. Allora, a con proposito noi, di rispetto, abbiamo la fortuna di conoscere... insegna tanto, no, come rispettare. Esatto. E il mondo in cui viviamo, abbiamo con noi Sara Turetta, che ormai è un'amica consueta, una parente di Radio 24. Ma io, scusa, voglio dire soprattutto una cosa, io ci tengo a dire una cosa: ci sono tante persone che fanno tanto del bene alle piante, agli animali, agli bambini, agli anziani, a chiunque necessita di attenzione ed è in difficoltà. Ci sono purtroppo anche tanti farlocchi che dietro la loro finta umiltà vogliono acchiappare magari soldi, fregare la gente e poi dopo sì, queste postano la foto del cane con la zampa rotta col muso sfasciato e poi dopo... Allora, per come si fa a capire quali sono le persone di cui ci si deve fidare? Sara Turetta, che è diventata la nostra amica, che adesso noi la difendiamo perché è la nostra amica, è diventata nostra amica per la grande stima che noi abbiamo per lei, è una persona limpida, chiara, fa tutto in chiaro, è appoggiata da una... ce lo facciamo dire da lei? Sara? Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Sara. Ciao, allora, cara. Sara è la presidente e la fondatrice di Save the Dogs, che è un'associazione che ha salvato migliaia di cani e si occupa prevalentemente dei cani in Romania. Sì. Sara, so che c'è un ente che certifica la trasparenza dei conti delle associazioni. È l'Istituto della Donazione, l'Istituto Italiano della Donazione, che finora ha certificato una sessantina o poco più di associazioni no profit italiane, uh-huh, verificando non solo la trasparenza dei conti e delle procedure contabili, ma tutto quello che è il modo di raccogliere i fondi, di comunicare con i donatori. E noi di Save the Dog siamo stati i primi a occuparci di animali, ad avere questa verifica e a diventare membri dell'Istituto, quindi ad avere questo login dona con fiducia, donare con fiducia, che trovate sul nostro sito. Da poco anche la Lega del Cane ha fatto lo stesso percorso, ne siamo molto felici, perché l'idea era proprio di innescare un meccanismo virtuoso e di far sì, certo, che altre associazioni del nostro ambiente seguissero il nostro esempio. Scusami, no, perché la domanda che mi viene fatta spesso quando anche noi ci esponiamo, no, sai, quando facciamo gli hashtag, per esempio adesso l'hashtag che abbiamo fatto per aiutarti sulla costruzione della prima clinica veterinaria in Romania, di cui poi ci parlerai, sì, la gente, anche gente famosa che spesso dà tanto, mi dice: ma come cavolo faccio io a capire? Perché magari hanno appena preso una fregatura, si sono fidati di un altro, non sanno dove vanno a finire i, certo, soldi. Quindi, certo, io ci tenevo che la gente capisse, anche già che dona qualcosa e lo fa con amore, di farlo serenamente e che quei soldi vanno proprio per lo scopo finale. Ma al di là del discorso dell'Istituto della Donazione, che è comunque un segno importante, tantissimo, è davvero una garanzia, noi abbiamo pubblicato, e lo trovate sul nostro sito nella sezione delle FAQ, delle domande frequenti, il vademecum del donatore responsabile, e lì ci sono alcuni punti veramente semplici che sono un po' una cartina al tornasole per capire se l'associazione che avete davanti merita fiducia. Andate a vederlo, questo vademecum del donatore consapevole, perché secondo noi è una guida molto utile. Benissimo. No, brava, perché Sara, così No, perché se uno mette mano al portafogli, no, dice: vabbè, faccio qualcosa per questi cani, piuttosto che per i bambini, piuttosto che per qualche altra cosa, però effettivamente quei 5 o 500 euro o 5.000 euro che uno vuole donare, è bene che vadano a nelle mani di uno che non sta sfruttando, certo, la sofferenza degli animali per intascarsi lui, perché succede anche questo. ma soprattutto che poi quei soldi vengano impiegati bene, perché anche certo. se uno è onesto potrebbe essere anche un incapace, quindi magari ha esatto. una serie di procedure all'interno della sua charity, della sua onlus, per cui purtroppo quei soldi lì, anche con tutta la buona volontà, vengono gestiti male, quindi alla fine tu aiuti poco gli animali. Invece bisogna avere un effetto leva al massimo della sua potenza, e soprattutto anche coerenza, perché poi ci sono alcuni personaggi che magari appoggiano, perché sai, io sono una che ci mette la faccia, mi becco gli insulti, li becco volentieri sui social, se sono costruttivo, se mi insegnano qualcosa, se mi dicono qualcosa che mi può essere sfuggito. Quindi ben vengano le critiche quando sono fatte in modo intelligente e costruttivo, e non da quattro rosiconi che si sentono forti dietro un social senza metterci la faccia, che insultano un personaggio famoso. Ma detto ciò, però, purtroppo ci sono anche personaggi famosi che si accostano a delle persone e le sponsorizzano, e magari non sanno, o fanno finta di niente, o non si informano abbastanza di sapere quanto limpide sono queste persone. Prevale l'emotività, Rosita, spesso nel nostro mondo prevale l'emotività in buona fede, perché certo, le persone certo. ovviamente, sia che siano VIP o che siano persone normali, spesso si fanno trainare appunto certo, da un'immagine, però hai ragione quando dici che bisogna superare quel momento lì dell'emotività e andare a vedere poi se dietro a quelle foto, a quei filmati, c'è, come diceva Angelo, una struttura solida, organizzata, con delle procedure trasparenti. Su questo discorso i donatori italiani devono ancora veramente tanto crescere, superare la fase del buonismo, un po' così, del sostenere un po' solo sull'onda dell'emotività, e così scavare un pochino più a fondo. Questo è veramente un invito che io faccio a chi ci ascolta. Esatto, difatti io ci tenevo a dire questa cosa, perché sai, poi a me magari mi dicono vabbè, ma è una tua amica, sarà Turetta. Io dico, guardate che io ho la presunzione di dire che tutte le persone che per me sono amiche con la A maiuscola sono persone che io stimo, perché sono persone per bene, perché sono persone oneste, perché sono persone che si fanno il mazzo o nel loro piccolo o in quello che portano avanti, come per esempio una cosa come quella che fai tu, che ci vuole, a parte che io non ce la farei a vedere certe situazioni perché mi sentirei fisicamente male. Quindi io non è che ci metto la faccia perché voglio bene a una persona, perché è mia amica, così, perché stimo veramente questa persona. Certo, una volta che la stimo, sei andata a fondo, sei andata a vedere esatto. dentro ad una realtà, assolutamente, anche perché poi essendo popolare, più popolare di un altro, io ovviamente rischio di fare una doppia figura, non certo. faccio bene alla causa, faccio certo. pure una brutta figura e non divento credibile. La credibilità è la cosa in assoluto che non si deve perdere. Detto ciò, raccontaci un po' a che punto siamo con la fantastica prima clinica in Romania. Vabbè, lo diciamo come se fosse scontato, ma in realtà è la prima volta che ne parliamo ai microfoni di Radio 24. Eh sì, pensavo ne avessimo già parlato, non è che ne parliamo così tanto. Eh no, perché sai, a proposito di buoni propositi, no? Questa puntata è sui buoni propositi che abbiamo per il 2017, anche Save the Dogs e Sara Turetta hanno un eccellente proposito per esatto. quest'anno. Sì, che io... costruendo qualcosa che è veramente molto ambizioso e straordinario, che è il primo ospedale veterinario della Romania per animali randagi o di proprietà di persone molto povere che non hanno modo di portare i propri animali nelle costose cliniche dei capoluoghi o della capitale. Uh-huh. E questa struttura è la prima ad essere di proprietà di un'organizzazione no profit e verrà interamente gestita da noi. Tra l'altro si parlava di trasparenza. Noi quando abbiamo lanciato la campagna a novembre abbiamo creato un sito che si chiama lanuovaclinica.savethedogs.eu senza www davanti, che è interamente dedicato a questo progetto, il che vuol dire che su questo sito si trovano tutte le informazioni, sia fotografiche, ma le planimetrie, il budget, tutto quello che riguarda il progetto, ma c'è un counter che viene aggiornato una o due volte al mese e che dice a che punto è la raccolta fondi. Una sorta di countdown. Una specie di countdown. Adesso, ai primi di gennaio, siamo a circa il 60% dei fondi raccolti rispetto al totale. Questo è un progetto da 660.000 euro. Ricordiamoci che le associazioni no profit pagano l'IVA esattamente come le aziende, anche se poi non la scaricano. Quindi questi 660.000 euro per questa clinica, che è di 700 metri quadrati, wow. e sorge accanto al nostro rifugio modello in Pronte di Gioia, accanto al rifugio per asini e cavalli, al gattile, è davvero un'opera straordinaria. straordinaria e non ha neanche un costo così alto se pensiamo alle dimensioni e alle caratteristiche. È una clinica a basso impatto ambientale, ecologica, sì, quindi infatti, con il massimo rispetto per l'ambiente. Difatti l'altra cosa che mi ha colpito è che già che c'erano, intelligentemente Sara fa le cose con le tecnologie proprio quelle giuste, in modo di avere il minore impatto sull'ambiente, cosa che io, scusami, dai disegni che mi ha fatto vedere Sara, dalle planimetrie, ma non esiste nemmeno in Italia una clinica fatta così. Bravissima. Oggi una clinica... Ma già come il canile, perché il canile Save the Dogs ha già realizzato in Romania è un canile che ha una struttura veramente portentosa, cioè io penso che non abbia pari tra i canili italiani. Allora, in Romania è un unicum. Ci tengo a dire che il nostro canile è stato realizzato su modello del canile di Villotta di Chions in Friuli. Il Friuli sappiamo che comunque è una regione molto avanti. Ecco, lì c'è un canile gestito da un'associazione, ma realizzato con fondi praticamente regionali, che è un canile splendido e a cui noi ci siamo ispirati. Quindi non voglio prendere che ci prendiamo tutto il merito di questo. Ci sono delle realtà eccellenti in Italia. Ma è bellissimo ispirarsi a chi ha già fatto qualcosa fatta meglio di noi, perché la vita dovrebbe essere questa, cioè ispirarsi a chi ha avuto l'intuizione o la possibilità di fare una cosa fatta per bene. Per la clinica Rosita noi ci siamo ispirati a modelli inglesi, perché ha ragione Angelo quando dice che non c'è nulla di simile in Italia. Ci sono degli ospedali veterinari, pochi, di privati, che sono sorti negli ultimi anni, ma non c'è nulla del genere gestito da un'associazione di proprietà di una associazione. Noi abbiamo guardato all'Inghilterra, che invece ha moltissimo da insegnarci in termini di professionalità nella gestione degli animali abbandonati e livello e standard qualitativi delle strutture. Quindi se andate a vedere, se vi incuriosite, andate a vedere sul sito, perché davvero come è stata pensata questa clinica, con delle lunghe aree di degenza dedicate, con spazi di isolamento, un reparto per gli infettivi, è veramente pensata per dare agli animali che sono ospiti il massimo delle cure e del benessere. Bene, grazie Sara. Allora senti, poi appena sarà pronta faremo una grande festa e ci ispireremo una a farne un'età, magari in meridione ne facciamo invitati. Una bella. Ah, grazie Sara, ma io poi mi sono divertito anche a vedere come, cioè dalle fondamenta, no? Come sono progrediti i lavori, sta venendo veramente. Senti Sara, ridici un attimo, perché la gente mi chiede, su quando io sui social, su Twitter, così qualcuno mi ha chiesto come faccio io ad fare la mia donazione, dove li devo mandare, lo ridici un attimo? Allora, si può andare sia sul sito www.savethedogs.eu nella sezione dona, e lì ci sono tutte le modalità, ma anche sul sito dedicato alla clinica, la nuova clinica.savethedogs.eu/dona-ora, e lì trovate il modo per pagare, per donare con la carta di credito, con il bollettino postale se amate fare le code alle poste, oppure con un bonifico bancario. Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili. Benissimo, poi andate sulla pagina Facebook di Save the Dogs e condividete i post relativi alla costruzione di questa clinica. Donate, donate, donate. Grazie Sara, un abbraccio. Grazie. A presto. Ciao un Sara. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva animale. Bon. Funziona il gioco? Come funziona il gioco? Ah, tu ti riferisci al fatto, giustamente, all'altra puntata abbiamo detto parleremo di quello che c'è scritto nel tuo nuovo libro, eccetera, oggi non l'abbiamo ancora fatto. E come funziona il gioco? Io, per esempio, do 16 leggi fondamentali del gioco, che poi in realtà appartengono alla forma più elevata di gioco, cioè quella in cui tu perdi te stesso. Perdi la cognizione del tempo, dello spazio, dei suoni, dei profumi. Ti butti a capofitto, rotoli a terra e giochi. Infatti, l'altra volta a Capodanno abbiamo parlato anzi, se volete recuperare la puntata, per chi non l'avesse ascoltata, andate sul sito di Radio 24 alla trasmissione Chiedimi se sono felice, vi riascoltate i podcast, perché tutte le puntate sono registrate lì. Se ci volete scrivere, chiedimi se sono felice, @radio24.it. L'altra volta facevamo un parallelo tra l'innamoramento e il gioco, no? Perché sono tutte e due attività di flusso. Allora, e te giochiamo un sacco, anche nudi. Anche nudi, certo, sotto le lenzuola, sopra le lenzuola, sulla lavatrice. Vabbè, comunque. Ma che andiamo... sulla lavatrice no, con la centrifuga. Con la centrifuga. Vabbè, questa qui è una roba sulla vecchia. Sulla bicicletta. Sulla bicicletta neanche, amore. Sul tavolo da biliardo. Sul tavolo da biliardo, allora, sì. A proposito di flusso, c'è questo psicologo che io non riesco ma no, mai non abbiamo il biliardo. A pronunci... Peter ci ha fatto la ola e ci ha battuto le mani. Abbiamo comunque il biliardo, ma la stecca e le palle, sì. E anche la buca. Beh, beh, vabbè. Facciamo la ola. Ma allora, adesso, meno male non è... Ma non ci voglio credere. E con uno questo, punti, ragazzi, vai, ha acquistato 7 miliardi di punti agli occhi della sua fidanzata. Grazie, una battuta alla squallor, vada. Grazie, grazie. Mi ora sa che del libro, professore. No, parliamo del libro, parleremo la prossima puntata a questo punto, perché insomma, una delle cioè, allora, c'è la teoria del flusso di questo psicologo, ecco, ungherese, dopo cioè, la stecca e le palle, il flusso, la perdita. E vabbè, adesso oramai sarà tutto un doppio senso, vada, la detto perdita, la stronzetta della giornata. Allora, c'è la concentrazione totale sul compito, cioè tutta l'attenzione sul qui e ora, in quello che stai facendo. Mm. Passato e futuro non esistono, si entra in un flusso ininterrotto di azione. Wow. Oh, mia cara. Amore, dobbiamo rifarla seriamente questa cosa del tuo libro, perché adesso tutti stanno pensando alla stecca, alle palle, al flusso. Quindi, alla tu dici, concentrazione. Cancelliamo questa cosa e rifacciamo tutto. No, non cancelliamo nulla, oramai quello che abbiamo detto è detto. Oh, brava, sfondi... la sfondata giornaliera. Sfondiamo una porta aperta. Che non è ormai... detto che sia così aperta. Ecco, l'altro punto è il piacere intrinseco. Eccoci. L'azione procura piacere, un piacere fine a se stesso, non dipendente dal raggiungimento di uno scopo. Il compito è piacevole in se stesso. Capito? Vedi i paralleli che stiamo ci sono tra gioco e amore. Stiamo parlando di sesso, stiamo parlando di gioco e amore. Gioco e amore, gioco e amore, gioco e amore. E poi quindi poi c'è un bilanciamento tra sfida e capacità. Quindi wow, questa è una cosa che poi soprattutto gli adolescenti. Allora, l'attività non è né troppo facile né troppo difficile per il soggetto. Un certo impegno è ciò che non rende noioso il compito, cioè quello che non rende noioso il compito, che allo stesso tempo non è tanto arduo da scoraggiare. Quindi mi raccomando, se dovete chiedere il numero di telefono alla ragazza che voi volete portare a cena, visto che siamo... Allora, quello che abbiamo letto è scritto sul libro Un cuore felice, l'arte di giocare, sì, con il tuo cane, perché a noi piace in questa trasmissione che si chiama Chiedimi se sono felice, l'arte di non l'arte, scusate, la prospettiva da parte il mondo dalla prospettiva degli animali, fare paralleli tra... Ci sei in carta, quando si parla di sesso vai, non capisci più niente, capisci Miriam? Vabbè, il piacere intrinseco, abbiamo Miriam e Peter al di là del vetro che ci ti guardano sbigottiti. Vabbè, tutti, sì, i tuoi allievi che ti vedono così molto sul pezzo e professionale hanno detto il vabbè, nostro ma prof... lo sanno che sono un giullare, dai. E allora adesso proseguiamo con la nostra rubrica Piatti e Ciotole. Piatti e Ciotole. E quindi Mara Di Noia, la nostra esperta di cucina casalinga per cani su base vegetale, cani, gatti, ricordare, e umani. Cani, gatti e umani. Cani, gatti e umani, sì, perché la particolarità di Mara è che dice, ma scusami, se tu devi comunque cucinare cibo fresco per la tua famiglia, esatto, ma perché contemporaneamente questo cibo non diventa anche il cibo per che il tuo amico animale? Che risparmi tempo, risparmi anche dal portafoglio, che se si e soprattutto sperimentato in prima persona hai molta più varietà, devo dire, e che... stai molto meglio. Stai molto in meglio. Tutti i sensi. Mm. Allora, oggi che piattino... Allora, oggi vi propongo le polpette di miglio. Allora, io amo molto le polpette, quindi... Anch'io, anche il miglio. Ecco, ne ho una varietà incredibile. Quindi vi occorrono 300 grammi di miglio, 8 cucchiai di pan grattato, 8 cucchiai di lievito alimentare in scaglie, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, del prezzemolo tritato, un cucchiaio di salsa di soia e farina semintegrale di riso per panare queste polpette. Allora, dovete sciacquare il miglio, cuocerlo per 20 minuti in praticamente il triplo di volume di acqua, quindi in 900 ml di acqua. Unire tutti gli altri ingredienti, impastare fino a ottenere un composto morbido, che però dovrà risultare compatto. Con questo impasto ottenete delle polpette tonde che poi andrete magari a schiacciare. Potete infarinarle con il mix di farina e metterle in una padella antiaderente con poco olio, e basta. Vi ricordo che potete anche cuocerle in forno, era qui la perplessità, potete anche cuocerle in forno a 180 gradi per 20 minuti. La particolarità è che tutte le polpette sono più buone in padella, non è che in forno non siano buone, però cambia un pochettino. Sì, sono forse anche un po' più leggere il forno, no? Ma guarda, mettendo pochissimo olio in una padella aderente non hai un piatto pesante e anche per i nostri animali va benissimo. È una questione di avere una crosticina un po' diversa. Ah, ok, senti, quanto tempo in padella e quanto in forno? Sono praticamente tutti ingredienti già cotti, per cui in padella quando vedete la crosticina l'avete già cotta. In forno la stessa cosa, 15 minuti a 180 gradi. Sono dei piatti molto veloci, non hanno derivati animali, sono adatti sia alle persone, quindi sia al piatto umano che alla ciotola, e con il piacere di condividere il piatto con veramente tutta la famiglia. Bello, bellissimo. Favoloso. Grazie Mara, sempre un piacere. Grazie. Gnam gnam, qua ci viene fame tutte le volte. Sì, viene fame. Sei quindi vi auguro buon appetito. Grazie. Grazie mille Mara. Voglio ricordare a quelli che ci stanno ascoltando, se per caso vi siete persi la ricetta, non avete fatto in tempo a prendere gli appunti, la ricetta, andate sui podcast di Radio 24, Chiedimi se sono felice, a recuperare la puntata, oppure cercate su Google Vega Chef e Mara Di Noia, così da andare a trovarla. Grazie Mara, mille. Un buona abbraccio, giornata. A presto, ciao, grazie. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao Mara Di Noia, ciao a tutti quanti. Chiedimi se sono felice, @radio24.it, che vi rispondiamo sempre. A domenica prossima da Angelo Vaira e Rosita Celentano.